Il punto di Stefano Folli. Il tentativo Bersani vive da oggi i suoi giorni cruciali, ma il pessimismo si sente nell'aria. Ieri, in quello che ha definito il suo ultimo atto pubblico, Giorgio Napolitano ha usato toni accorati. Chiedere ai partiti di pensare al bene dell'Italia significa volervi fermare sulla strada dei veti incrociati, che sono invece il vero dato politico di queste ore. In luogo di una ricerca seria di possibili convergenze, ci sono polemiche sempre più roventi. Sabato abbiamo ascoltato Berlusconi, ieri il PD ha risposto alzando il tiro contro le larghe intese. Insomma, siamo in alto mare. Al di là della ricognizione sulle urgenze economiche, i nodi politici sono ancora tutti sul tavolo irrisolti. I colloqui di Bersani con i partiti devono ancora cominciare, mentre il tempo che passa non sembra portare a una soluzione. Porta semmai all'inasprirsi delle rispettive pregiudiziali. Ci vorrebbero da parte di tutti buona volontà e fantasia, mancano l'una e l'altra.